La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Articolo 101, passiamo al titolo quarto della Costituzione, dedicato alla magistratura. E il primo articolo, proprio il 101, è l'esempio più limpido e più lampante della divisione dei poteri, cioè la giustizia amministrata in nome del popolo, perché noi sappiamo che la sovranità appartiene al popolo ai sensi dell'articolo 1, è per questo che tutte le sentenze vengono pronunciate in nome del popolo italiano, perché in fondo che cos'è la magistratura? La magistratura altro non è che l'applicatore della legge, quindi per dirlo secondo le più classiche teorie francesi, il giudice è bouche de la loi, il giudice è bocca della legge, quindi il giudice deve applicare la legge. E questo è sancito in maniera chiarissima nel secondo comma dell'articolo 101. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo cosa significa? Significa sia che il giudice applica la legge e che quindi deve essere sempre obbediente alla legge, ma significa anche che non può applicare null'altro se non la legge. E qui l'avverbio soltanto ci fa escludere che il giudice possa applicare equità, buonsenso, convinzioni personali, perché il giudice è applicatore della legge. In questo articolo 101, in fondo, rivediamo la struttura più classica dello Stato costituzionale. Lo Stato costituzionale ha al vertice la Costituzione. La Costituzione individua e detta le linee generali. Queste linee generali trovano esecuzione nella legislazione. La legislazione è fatta dal Parlamento, rappresentante del popolo in maniera diretta. A quel punto, al di sotto della legislazione, abbiamo i due grandi applicatori della legge. Da una parte la pubblica amministrazione e dall'altra i giudici e la giustizia. Quindi, al centro di tutto, abbiamo il principio di legalità, perché tutto deve avvenire in maniera conforme alla legge.